Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che vi confermo quanto già annunciato anche dai nostri GR, alle 18 oggi avremo uno speciale sulla drammatica, sul precipitare della situazione ucraina, quindi il programma terminerà alle 18 e dalle 18 alle 18.30 vi sarà uno speciale dedicato appunto a quanto sta avvenendo, ahimè, a Kiev. Parleremo del tolto ministro dell'economia, sì, il nome più quotato, adesso ne ragioniamo, sembra anche l'unico nome rimasto sul tappeto, salvo sorprese. Parleremo dell'operazione, perché non è che esista solo l'Italia, un'operazione monster. Ieri sera Facebook, che ha annunciato di aver acquisito per 19 miliardi di dollari WhatsApp, che è popolare, diciamo, applicazione di messaggistica istantanea. Pensate che è nata 5 anni fa WhatsApp, ma conta già 450 milioni di utenti e 1 milione di nuovi iscritti al giorno. No, questo per dire che c'è tutto un mondo che continua a muoversi. Saranno pagati 12 miliardi in azioni Facebook, 4 miliardi in contanti e 3 miliardi in azioni ma vincolate. Per i fondatori, sapete quanti dipendenti ha WhatsApp in tutto? 50. Ci sono i fondatori e 50 dipendenti, tra cui non figura alcun addetto al marketing. Adesso non mi fate scrivere da chi lavora nel marketing, che è un ruolo importantissimo, però vanno ridefinite altre cose. Citerò anche, ne ha parlato a lungo Oscar Giannino, il suicidio di Napoli, perché una cosa, adesso vi arriviamo, obiettivamente nessuno qua va a contestare la legge, mai è avvenuto in questo programma, però non si può nemmeno fare come al tempo dei Borboni e far finta di non vedere quella che è la situazione del paese e far finta di non vedere quella che sono situazioni gravi a fronte di grandi società e grandi capitali che stanno all'estero, che pagano il fisco in Lussemburgo o in altri luoghi. Ecco, prendersela con uno che fa lavorare la moglie, non l'ha messa in regola, dagli 2000 euro di multa che lo obbligano a chiudere e quindi poi portano, il che non vuol dire giustificare il suicidio. Abbiamo fatto un'intera manifestazione, iniziativa che si chiamava Disperati Mai con Oscar Giannino, e mai abbiamo legittimato il suicidio come scelta rispetto alla disperazione. Però vogliamo dire che quelli sono i problemi del paese? Che la moglie che lo aiutava in pizzeria, nella pizzeria al taglio, è il problema dell'Italia? Se vogliamo andare avanti così, e invece i grandi capitali che stanno fuori, quelli non sono un problema dell'Italia, vero? Adesso ci arriviamo. Comunque, anche di questo parleremo, oltre che di Facebook. I dati sulla produzione industriale, ahimè, segnano una battuta d'arresto nel fatturato, e io vorrei sapere dal ministro Saccomanni dov'è sta ripresa che lei e il ministro Letta, continuavate a vedere. Abbiamo anche il file, poi lo facciamo riascoltare Saccomanni, mitico di 2 giorni fa, la ripresa dalla metà del 2013 è merito dell'iniziativa interna del governo, perché il fatturato a dicembre torna giù dello 0,6% all'anno e quindi segna la prima battuta d'arresto da 22 mesi. Faccio notare al ministro Saccomanni uscente, al premier Letta, che nel 2013 l'industria italiana ha perso quasi il 4% di fatturato, che va a sommarsi al 20% da cui siamo sotto dal 2008. No, lo dico perché qualcuno ricorderà la polemica Letta-Squinzi. Ecco, non so, questi sono numeri e non polemica. E l'Istat stessa a dire che il ribasso di questo è dovuto al mercato interno. Pensate che anche i consumi di carburante per autotrazione, cioè quello usato per le automobili, sono calati del 2,5% anche a gennaio. Se mi si mette assieme spesa complessiva per benzina e diesel si arriva a un 4,9%, per cui questo a segnalare che tutta sta ripresa a gennaio la vedono solo Letta e Saccomanni. Ancora la borsa, oggi di nuovo piatta, invariata la borsa di Milano, più 0,20 Parigi, meno 0,50 Francoforte, 0,07 anche oggi è il rialzo di Londra. Per quello che riguarda l'euro siamo a quota 1,37, fermo su questa soglia. Sui titoli segnalo Saipem più 3,11, A2A più 2,30, Fiat più 1,90, Enel più 1,5, Azimut più 1,20, Terna più 0,90 come Campari e Snam e il Monte dei Paschi. Lo 0,70 rialzo di Mediolanum e della Pop Milano. Chi perde oggi? Mediaset il 4,90%, Ubibanca meno 1,70, Atlantia meno 1,60, UO Duty Free meno 1,1, Finmeccanica meno 1,1 e ST Microelectronics meno 1 come Mediobanca. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, l'economia internazionale, vabbè, chiaro, vi sarà lo speciale dalle 18 in poi di Radio 24, è chiaro che c'è molta attenzione a quello che sta capitando a Kiev, ma vorrei far notare altre due cose, che il presidente dell'Eurogruppo, Heron Dijsselbloem, ha detto che la Grecia non rischia la bancarotta, ma ha detto una cosa molto importante sull'Italia, che riguarda anche l'Italia, e cioè che i paesi che metteranno in campo delle riforme potranno avere più tempo per risanare i bilanci. Dijsselbloem ha detto che anche il commissario Olli Rehn, il commissario economico, è d'accordo con la sua proposta. Questo per noi è una cosa molto importante, vuol dire che se c'è un piano di riforme vere, ho visto che Renzi ne vuole fare una al mese, l'Europa è disponibile ad accettare un piano di rientro più morbido. Tradotto vuol dire che potremmo avere un deficit al 3,2, 3,3, 3,4, non andrei oltre, a patto che vi sia un piano di riforme che mostra come in prospettiva l'Italia avrà una crescita dell'economia. Ripeto, se cresce il PIL tu puoi avere un deficit anche più alto, perché è quello che interessa, è il rapporto con il PIL è il denominatore. Per cui da questo punto di vista c'è un'apertura importante, che è l'unica strada possibile per un futuro governo Renzi, e cioè mostrare che l'Italia fa le riforme, mercato del lavoro, burocrazia, cuneo fiscale, che permetteranno all'economia di riprendersi, ai consumi interni di riprendersi, e quindi in prospettiva al PIL di migliorare, e quindi è accettabile un deficit un po' più alto. È una strada che né Monti né, devo dire, Letta hanno mai voluto intraprendere, cioè andare a dire facciamo le riforme a patto che voi ci ammorbidiate il piano di rientro sui conti pubblici. Lo spread è leggermente risalito, ma è sempre a 196 punti base, quello spagnolo a 194 punti. E adesso veniamo al Toto Ministri. L'unico ministro che ci interessa, devo dire con il massimo rispetto verso gli altri, è il ministro dell'economia, che è anche il più delicato, il più importante. Adesso arriva anche chi mi dice che sono incredibile perché vuole che in Italia le leggi, io vorrei che in Italia le leggi venissero applicate a seconda del tempo che fa. No, lei non ha capito nulla, ma vediamo, per colpa mia chiaramente, adesso glielo cerco di spiegare di nuovo. Però veniamo al Toto Ministri. Resta sul tappeto l'ex rettore della Bocconi Guido Tabellini come ipotesi più forte. A noi fa particolarmente piacere perché è editorialista del Sole 24 Ore, ma non vuol dire nulla, è un piacere così emotivo. Faccio notare che se uno va a riprendere gli articoli, gli ultimi articoli che ha scritto Guido Tabellini, probabile, papabile nuovo ministro dell'economia, tutto da vedere, si evince chiaramente quello che potrebbe essere l'intenzione di Tabellini, che è nato a Torino il 26 gennaio del 56, si è laureato sempre a Torino in economia, poi ha fatto dottorato alla UCLA di Los Angeles, è professore di economia alla Bocconi di Milano dal 94, ha fatto anche il rettore dell'Università Bocconi dal 2008 al 2012. Ed è, devo dire, uno degli economisti italiani più conosciuti all'estero, e fa anche parte della commissione dei 35 esperti nominata a suo tempo dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, quella che era incaricata di redigere il disegno di legge sulle riforme costituzionali, perché Tabellini si occupa molto anche di struttura istituzionale, ha scritto anche molti articoli sul ruolo del Presidente della Repubblica, i poteri che dovrebbe avere il Presidente del Consiglio. Ma nel caso specifico sull'economia invito a rileggere l'articolo pubblicato da Sole 24 Ore il 22 dicembre, in cui Tabellini dice sostanzialmente che la riforma più urgente di tutte è la riforma del mercato del lavoro, quella da cui partire, e individua anche alcune operazioni possibili, per esempio l'eliminazione della cassa integrazione in deroga, ma l'introduzione di un sussidio di disoccupazione decrescente nel tempo, cioè più tempo sei disoccupato più questo sussidio cala, in modo da incentivare anche le persone a cercarselo il lavoro, fino a un reddito minimo di sussistenza, e con i soldi verrebbero ritrovati dall'eliminazione della cassa integrazione in deroga, ma anche ricercati un po' tra le pensioni di anzianità o di chi ha usufruito di regimi pensionistici particolari, penso ai baby pensionati, a cui si potrebbe chiedere un contributo, e poi anche un contributo da chiedere con un'aliquota del 10% alle pensioni più alte, in modo da ristabilire più equità sia tra generazioni che tra diverse categorie di lavoratori. Questa è la riforma più importante, cioè arrivare ai sussidi di disoccupazione, ripeto, secondo la proposta Tabellini, via via decrescenti. E poi però l'altra riforma che lui individuava in questo editoriale per il Sole 24 Ore, anche l'abbattimento, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Come trovare le risorse per questo? Riducendo i contributi, i trasferimenti pubblici alle imprese. Le imprese sono d'accordissimo, perché la maggior parte di questi 30 miliardi vanno a imprese partecipate dallo Stato o comunque dagli enti pubblici, non vanno alle imprese private. Per cui su questo la Confindustria ha già detto più volte che accetterebbe uno scambio, 30 miliardi in meno di contributi, e in cambio di una riduzione della pressione fiscale sul lavoro, sulla busta paga. E a proposito di Confindustria, sentiamo il presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto di augurarsi un governo capace di dare risposte. C'è un paese che è stremato da una crisi che sta durando ormai da 6 anni. Politico all'economia, meglio un tecnico, un politico, gli hanno chiesto: non ci poniamo problemi di questo tipo, quello che noi sogniamo è un ministro dell'economia che possa operare, che possa prendere i provvedimenti che servono all'economia e al sistema delle imprese. Non possiamo ancora avere delle opinioni perché non conosciamo ancora chi saranno i componenti. Noi ci auguriamo che sia un governo capace di veramente di operare per dare delle risposte ad un paese che è stremato da una crisi che ormai sta durando da 6 anni e che ha bisogno di uscirne il più presto possibile. Noi dobbiamo avere fiducia, perché come imprenditori noi abbiamo fiducia nel futuro, e quindi ci auguriamo che da questa fase politica molto complessa alla fine esca un governo in grado di operare e di prendere le misure che servono al Paese per uscire dalla crisi. Ecco, soprattutto possibilmente, come è stato detto la settimana scorsa a Torino, un governo che non dimentichi che non c'è ripresa senza impresa. Quello che noi sogniamo è un ministro dell'economia che possa operare, che possa prendere i provvedimenti che servono all'economia e al sistema delle imprese del nostro paese. Del Rio, grazie, secondo lei è un buon nome? Io non sui singoli, permettetemi di non esprimermi, a parte che a livello personale ho molta amicizia e molto rispetto per Del Rio, e quindi sicuramente è un buon nome in assoluto, però permettetemi di non esprimere giudizi. Eh sì, perché Del Rio è l'altro nome che è circolato per ministro dell'economia. Ripeto, il nome nuovo e l'ipotesi nuova è quella di Guido Tabellini. Staremo a vedere poi chi sarà il nuovo ministro dell'economia, tanto manca poco a questo punto. Grazie ad Alessandra Schepisi che ha appunto registrato questa intervista con Squinzi. Sul sul tema del nostro paese, però vorrei far sentire anche l'intervista che ha realizzato ieri Valeria De Rosa con Nuria Rubini. Ne abbiamo ascoltato una parte che riguardava più l'Europa, ma c'è una parte che riguarda i progressi compiuti dall'Italia, pur ribadendo che servono adesso più fatti e meno parole. Rubini è il famoso economista che previse la crisi in anticipo, Dr. Doom, molto elogiato come capacità appunto di leggere gli scenari futuri. Well, Italy has done some efforts. The budget deficit has been reduced now below 3%. L'Italia ha fatto degli sforzi per ridurre il deficit sotto il 3%. La recessione è finita. C'è un inizio di crescita, anche se è molto debole, e il tasso di disoccupazione è molto alto. Anche il debito pubblico è molto alto in relazione al PIL. La crescita potenziale è molto debole perché le riforme strutturali stanno andando avanti lentamente. C'è stato un miglioramento. Quello che ha fatto la BCE è stato utile per l'Italia. Quello che l'Italia ha fatto sul fronte fiscale, e non solo, ha ridotto i rischi, ma ora avete bisogno di un governo forte, molto impegnato a implementare il mercato del lavoro. Le riforme strutturali sono necessarie per rimettere in moto la crescita, creare posti di lavoro, ridurre il tasso di disoccupazione, ripristinare la competitività sui mercati esteri. Il reddito pro capite è rimasto piatto negli ultimi 10 anni. A causa della disoccupazione, molti giovani lasciano il paese. Quindi avete bisogno di un governo forte, che parli meno e agisca di più. Credo che ci sia un consenso ampio tra centro-sinistra e centro-destra sulle riforme da fare, sul riattivare la crescita e la competitività. È tempo di agire e fare ciò che c'è da fare. Sullo spread, molti dei movimenti dell'ultimo anno sono stati dovuti ai rovesciamenti, agli aggiustamenti fiscali, il ripristino di alcuni indicatori per la crescita, il deficit sotto il 3%. Le persone sono spaventate dall'incertezza politica dell'Italia, ma a volte i cambiamenti politici possono essere in meglio. Gli investitori stanno concedendo il beneficio del dubbio all'Italia e a Renzi. Penso che in quanto giovane leader voglia fare le riforme, è dinamico, energico. Penso che gli investitori ritengano che il cambiamento adesso possa migliorare la crescita del paese e renderla sostenibile. Questo potrebbe essere uno dei motivi della discesa dello spread, ma il governo deve ancora essere formato e avere un programma. Le speranze sono una buona cosa, ma poi sono necessarie le capacità per dargli seguito. L'ottimismo che i mercati stanno mostrando forse indica che le cose per l'Italia stanno migliorando. Così Nuria Rubini. Adesso vorrei parlare del commerciante di Casalnuovo in provincia di Napoli. Allora, si chiamava Edoardo De Falco, aveva 38 anni e indossava ancora i vestiti da lavoro quando ha deciso di farla finita. Era il titolare del panificio pizzeria Speedy Pizza. Ha fatto ritorno dal lavoro verso le 5 di mattina, ha parcheggiato l'auto sotto la propria abitazione e poi l'ha collegata con un tubo di gomma, ha collegato lo scarico dell'auto a un tubo di gomma e ha inalato il gas di scarico che le ha ucciso. A casa lo aspettavano la moglie, 3 figli, una ragazzina di 14 anni e i fratelli gemelli di 5. Allora, abbiamo detto moltissime volte nel corso dell'iniziativa Disperati Mai che nulla giustifica un suicidio, e ce l'hanno raccontato in diretta gli orfani di alcune persone, è perché il dolore che si lascia, lo dico veramente col cuore, il dolore che si lascia è incommensurabilmente più grande di qualunque motivo che può portare o può far immaginare una scelta del genere. Per cui nessuno sta giustificando questa scelta che riteniamo sempre sbagliata. Ma cos'era successo? Era successo che questo titolare di una pizzeria al taglio, panificio, rischiava la chiusura dopo la visita dell'ispettorato del lavoro avvenuta martedì scorso. Gli ispettori del lavoro avevano trovato la moglie intenta ad aiutarla nella pizzeria panificio aperta qualche anno fa e gli avevano contestato che la donna non avesse un contratto di lavoro, di cui la multa di 2.000 euro che il 38enne panettiere avrebbe dovuto pagare in pochi giorni. con il rischio di chiusura dell'attività commerciale. I soldi non ce n'erano, riferisce il fratello, che a cui lui si era rivolto, ma è cassa integrato della Fiat Pomigliano, e non aveva disponibilità economica. Gli aveva promesso che avrebbe trovato una soluzione, un altro familiare si era offerto di pagare la multa, ma insomma lui non ha retto e si è suicidato. Addirittura domani ci sarà una serrata dei commercianti a Casalnuovo e i colleghi sono pronti alla denuncia all'ispettorato del lavoro per istigazione al suicidio. Allora, io chiedo due cose. Ma in un paese che ha un tasso di illegalità come abbiamo al sud, ma non solo, perché l'ispettorato del lavoro, che ha fatto il suo lavoro, per carità, chiede di pagare una multa di 2000 euro in pochi giorni a uno che vende una pizza al trancio perché ha beccato la moglie che gli dava una mano? Cioè, questo è il problema dell'Italia, vero? Perché a me, quando dico Borboni, qualcuno si è offeso, chiamateli come volete. A Napoli, in provincia di Napoli, con la situazione che c'è del mercato nero, del lavoro nero, il problema a Napoli è far pagare in 2000 euro nell'arco di pochi giorni a uno perché ha beccato sua moglie che gli dava una mano a infornare la pizza nella pizzeria al taglio. Ma stiamo pazziando, come direbbero a Napoli. Poi vi lamentate, e lo dico all'ispettorato del lavoro, ok, dagli la multa, vedi, se questo dice che non c'hai soldi per pagare, ma prova a rateizzarla, fai qualcosa, non va violata la legge. Ma io vorrei che l'ispettorato del lavoro avesse la stessa forza nelle zone controllate dalla camorra, dall'andrangheta, andare a vedere chi lavora lì, come sono le fabbriche, anche a Prato. Dov'è l'ispettorato del lavoro a Prato, dove si chiudono 2, 3, 4, 5 occhi? Allora, è questo il paese che vogliamo? Che questi sono i grandi abusi, vero? La moglie che lavora con lui, nessuno sta chiedendo l'illegalità, lo dico a certi geni che mi stanno scrivendo, ma la ragionevolezza si può applicare oppure restiamo il paese delle mille regole che si applicano poi per alcuni e non per altri, eh? Si può chiedere questo, si può chiedere che non ha senso a uno che ha difficoltà economiche obbligarlo a pagare 2000 euro nell'arco di pochi giorni, se no gli chiudi la pizzeria? Questo c'ha tre figli. Allora, capiamo o no? Allora, io non voglio istigare violenza nei confronti dell'ispettore del lavoro, ma esiste un margine in questa burocrazia o siamo in un mondo alla Orwell, per non dire altro, in cui, a me ricorda anche alcuni film, in cui praticamente tu sei un numero, non sei più una persona? Ma di cosa stiamo parlando? Vedo che qualcuno mi attacca perché ho criticato l'operato dell'ispettorato del lavoro, ma è come con Equitalia, nessuno dice che le tasse non vadano pagate, ma poi andrai anche a valutare la condizione dell'artigiano e del commerciante, cara Equitalia, ok? E care agenzie delle entrate, perché è un po' diverso ogni singola volta. Dopodiché qualcuno dice che non devo parlare dei grandi capitali, no, parlo dei grandi capitali. Perché abbiamo un paese con 100 miliardi di evasione, con 130 miliardi stimati in Svizzera dalle banche, delle banche svizzere. Quello però non conta, no? Allora, mi incavolo come una bestia, perché il problema non è il pagare il fatto che la moglie lo stesse aiutando e chiudere un occhio. Non voglio un paese in cui si chiudono gli occhi, voglio un paese in cui si aprono gli occhi e si dica: beh, guarda, questa cosa qui è regolare, adesso io non ho i soldi, bene, te lo rateizziamo a 20 euro al mese, a 50 euro al mese, tanto, voglio dire, la multa l'hai data, il principio l'hai posto, vai a fare il tuo lavoro come ispettore del lavoro dove veramente serve, non dove le mogli aiutano i mariti in pizzeria, tutto legalmente la pizzeria, voglio dire, non è che hanno scoperto uno scantinato in cui facevano la pizza, in una zona in cui sono più le cose illegali delle volte che le cose legali, e questo è il risultato. Ma io chiedo se si può poi non giustificare chi dice basta con l'ispettorato del lavoro. Attenzione, perché la legge è credibile quando è equa, quando vale per tutti e ha un principio di ragionevolezza, non in questo modo. Adesso sto zitto perché mi sto troppo arrabbiando nel momento in cui, nel giorno in cui sappiamo dalla Coldiretti, visto che questo paese il problema è la moglie del pizzaiolo, che il volume complessivo d'affari dell'agromafia, la mafia, ok, è di circa 14 miliardi di euro nel 2013, ha fatto più 12% in due anni, e per l'agromafia sono tutti in regola i lavoratori, chiedo all'ispettorato del lavoro, no? C'è stata un'operazione della DIA Palermo sulle società facenti capo al clan Galatolo legate al mercato ortofrutticolo e si sono accorti appunto che l'agromafia continua a aumentare il suo fatturato, hanno sequestrato 250 milioni di euro al clan Galatolo. Lo dico anche perché se l'ispettorato del lavoro vuole essere credibile deve andare là dove è più pericoloso, oltre che nei panifici e nelle pizzerie al trancio visibili a tutti dove nessuno può reagire. Abbiate la forza e il coraggio, fatevi scortare, di andare nelle zone controllate dall'andrangheta, dalla camorra, dalla mafia. Andiamo a vedere come sono messi lì i contratti, perché sennò torniamo sempre al solito problema. Uno Stato che fa il forte con i deboli e il debole con i forti. Meteo, adesso basta. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Lasciate, guarda, andiamo avanti con il resto del programma, perché sennò la mia amarezza aumenta. A chi mi chiede se sono dell'idea che vada aperta un'indagine all'ispettore, sì, secondo me sì, perché c'è una regola che ha il buon senso. E poi, come abbiamo chiesto a Equitalia, all'Agenzia delle Entrate, di valutare la situazione finanziaria. Ma cosa deve fare? Un ammazzarsi, vendere la moglie ogni volta? Allora valuta, se vedi che ha i capitali per pagare, gliela fai pagare subito sta multa, e se no gliela dai, gliela rateizzi. Questo si chiede, nessuno chiede la violazione delle leggi, nessuno. Però per tutti, e soprattutto di capire da situazione a situazione. Becchi l'Armellini con 1200 appartamenti a Roma, non ti sei mai accorto che non pagava l'ICI anche se gli appartamenti erano affittati alle istituzioni? E allora lì sì, gli dici: caro Armellini, paga tutto fino all'ultimo euro, prendi questo con la pizza al taglio, 2000 euro, gli cambiano la vita, c'ha tre figli, tutti piccoli, ma gli potrai dire di pagare nell'arco di 5 anni? Che cavolo ci cambia se paga in 5 anni invece che in 4 giorni? Adesso però ve lo spiegheranno i suoi figli che cosa è cambiato non farlo pagare in 5 anni invece che in 4 giorni. Allora, dai, andiamo all'estero che è meglio. L'operazione di Facebook su WhatsApp, 19 miliardi di dollari per WhatsApp, che è un'applicazione per mandare messaggi istantanei, nata 5 anni fa, pensate, già conta 450 milioni di utenti e milioni di nuovi iscritti al giorno, milioni di nuovi iscritti al giorno. Praticamente 12 miliardi si hanno pagati in azioni Facebook, 4 miliardi in contanti, altri 3 miliardi sempre in forma di azioni non ma vincolate per i fondatori. Ha in tutto 50 dipendenti WhatsApp, e senza nessuno al marketing. Andrea Cuturi, responsabile investimenti di Antille SGR, buonasera, specializzata anche in quella che una volta chiamavamo la dot economy, adesso la chiamiamo, come la chiamiamo questa economy, Cuturi? Ormai è diventata Real Economy, buonasera. Buonasera anche lei, Real Economy. E grazie anche a Massimo Russo, direttore di Wired Italia. Wired è la Bibbia per chi si occupa appunto di tutto ciò che ha a che fare con quella che una volta chiamavo Dot Economy. Buonasera anche a lei. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Il numero per gli sms è sempre 349-238-6666 per, appunto per scrivere, e la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima domanda per tutti e due, Menizzi Cuturi, ma insomma non sono tanti 19 miliardi per WhatsApp? Cioè è vero che ha fatto un botto incredibile in 5 anni, 450 milioni di utenti e milioni di nuovi iscritti al giorno, ma come li riprendi questi soldi? Beh, allora il numero è sicuramente impressionante, anche perché uno dei numeri che va forse riportato in merito alla società WhatsApp è il suo fatturato. Sono circa 20 milioni di dollari l'ultimo dato riportato, quindi è veramente molto piccola, ma è un deal che dal nostro punto di vista ha una sua ragionevolezza ed ha una ragionevolezza strategica. Intanto per 3/4 è pagato con carta, con azioni Facebook, che negli ultimi 6 mesi sono più che raddoppiate, quindi da questo punto di vista il management e gli azionisti di Facebook si stanno in qualche modo proteggendo pagando solo il 25% in cash. Secondo, WhatsApp è un'applicazione che noi chiamiamo in gergo la killer application, cioè una di quelle cose che arriva per prima e hanno tutti. Ne parlavo oggi con un tavolo di colleghi e si faceva prima fare la domanda: chi è che non la utilizza e non ce l'ha? Guadagna 1 milione di clienti al giorno, questo è impressionante. Perché Facebook, che comunque è il leader indiscusso dei social network, ha interesse a fare un'operazione di questo tipo? Perché sostanzialmente va ad aggredire, dal punto di vista geografico, aree in cui è meno forte: Europa, America Latina, Africa, Australia. e paradossalmente anche dal punto di vista generazionale è un'operazione che ha un suo senso, perché ci sono alcune, diciamo, i giovanissimi di oggi, 15, 16 anni, 20 anni, quindi diciamo nei primi anni di utilizzo delle tecnologie, non usano più Facebook, ma utilizzano social network più piccoli, dedicati, quelli per quella generazione, o negli Stati Uniti, per esempio, dei campus universitari. Quindi facendo questo, arrivando attraverso WhatsApp a quelle generazioni, Facebook ha, diciamo, poi può applicare il suo modello di creazione di revenues. Quindi è un numero importante, forse spropositato, 19 miliardi di dollari, ma ha una sua valenza strategica. Quindi, se ho ben capito, Couturi, per lei sono tanti, ma sono giustificati? Sì, dal punto di vista degli azionisti di Facebook, e lo stiamo vedendo con una reazione molto composta, sì, del titolo, ha una sua valenza strategica, assolutamente sì. Allora, Massimo Russo, direttore, ma non c'è, io ci capisco poco, come di tutto quello di cui parlo, però ho visto nel passato avere queste dei titoli legati appunto alla dot economy, avere delle grandi fiammate, no? E poi spegnersi un po'. Allora, WhatsApp è sicuramente quello che voi chiamate appunto l'applicazione killer, perché è quella che sbanca il mercato, no? È quella che obbliga tutti gli altri a riallinearsi e a prenderne atto. Ma non c'è rischio che Facebook la vada a comprare quando ormai ha raggiunto, non dico il suo massimo potenziale, perché ha 1 milione di nuovi iscritti al giorno, ma un po' troppo alta, cioè una parte alta della curva? Allora, ovviamente questo si saprà solo col senno di poi. Devo dire che quella curva è impressionante, perché se si guardano, se si guarda il paragone tra WhatsApp e gli altri social network a 4 anni dalla nascita, WhatsApp, come si diceva poc'anzi, ha oltre 400 milioni di utenti, Facebook a 4 anni dalla nascita ne aveva 145 milioni e oggi sono 1,3 miliardi, Gmail, quindi un sistema di posta, ne aveva 123 milioni, Twitter ne aveva 54 milioni, Skype ne aveva 52 milioni, quindi è senza dubbio la curva di crescita più impressionante, la derivata prima e la più alta che si è vista finora. E poi l'altro elemento molto rilevante a parer mio è che ricopre Facebook nei confronti di una generazione giovane rispetto alla quale Facebook non cresceva più così tanto e per la quale WhatsApp è anche un private social network, cioè WhatsApp consente di fare, che poi uno degli usi più comuni tra i più giovani, i ragazzini tra gli 8 e i 14 anni, dei gruppi privati all'interno dei quali si chatta gratuitamente, e questa è un'applicazione che è molto utilizzata. Mi spiegate in due parole, Couturi, poi Russo, lo dico anche perché molti ascoltatori lo chiedono, qual è l'elemento completamente innovativo di WhatsApp, perché poi non tutti gli ascoltatori lo usano, perché gli SMS c'erano anche prima, i sistemi di messaggistica non sono nati adesso, uno comunica con Facebook, comunica con gli SMS, comunica col telefono, comunica con le mail, comunica con Twitter. Ecco, cos'è che ha di nuovo e di così determinante WhatsApp? Couturi e poi Russo. Dal mio punto di vista è sicuramente il vantaggio di essere stato il primo ad essere così disponibile per quasi tutti, sostanzialmente i detentori di telefono Apple lo hanno gratis, per esempio, quindi ha il vantaggio di essere arrivato per primo ad un servizio che oggi ha una comunità importante, 450 milioni di utenti, ma attenzione, 315 milioni di utenti quotidiani tutti i giorni, quindi 315 milioni di persone tutti i giorni usano WhatsApp e sono circa l'80% delle persone che usano WhatsApp. Quindi da questo punto di vista sono arrivati per primi e sono arrivati rinunciando al fatturato. Quello che le dicevo prima, questa azienda che viene pagata 19 miliardi di dollari ne fattura 20. Quindi da questo punto di vista hanno avuto l'intuizione di diventare veramente grandi con una velocità incredibile e con una base di costi e struttura snellissima, 50 dipendenti, costi inesistenti, ma sono arrivati per primi. E questo la rende unica da questo punto di vista. Mi fa già capire alcune cose, però vorrei sentire anche Russo su questo. Ma io direi due cose su tutto. La prima, che a parte l'acquisto dell'app iniziale, che per alcuni apparecchi appunto non è gratis, è che rispetto agli SMS è un sistema di messaggistica totalmente gratuito. E la seconda, che è un sistema molto affidabile, quindi è un sistema che funziona, ce ne sono stati diversi di sistemi di messaggistica, ma non così affidabili. Ma gratuito lo capisco, affidabile no, perché anche gli SMS normali sono affidabili, no? Sì. Però su WhatsApp tu hai una facilità per caricare foto, immagini, video. E gli SMS comunque hanno un costo. E gli SMS hanno un costo, quindi è il costo. Grazie a tutti e due, perché vedo che comunque, nonostante il mio scetticismo, ma mi pagano per questo, diciamo, ritenete che l'operazione è stracara, ma con questi numeri, con questa progressione, si giustifica. Grazie quindi a Andrea Cuturi, responsabile investimenti di Antila SGR, e a Massimo Russo, direttore di Wired Italia. Altre operazioni in un mondo che è obiettivamente il mondo più veloce che c'è sul fronte delle operazioni di fusione e acquisizione. Microsoft si comprò Skype per 8 miliardi e mezzo nel maggio del 2011. Poi sempre Microsoft si è comprata Nokia a settembre del 2013, lo ricorderete, per 7 miliardi. Amazon si è comprata il Washington Post l'anno scorso ad agosto per 250 milioni. Nell'agosto del 2011 invece Google si comprò Motorola per 12 miliardi, solo che l'ha rivenduta Lenovo due settimane fa per 2 miliardi e 9. Non è stata una grossa operazione quella, ma mi diranno gli esperti del settore che andava su un settore troppo maturo e decotto, come diciamo, la produzione del telefonino e non le app. Google si compra YouTube per 1,6 miliardi, cioè pensate che però insomma YouTube, questo è nel 2006, però fa impressione la differenza tra quanto pagò Google YouTube e quanto ha pagato adesso Facebook e WhatsApp. E News Corp ha comprato MySpace per 580 milioni nel 2005, l'ha rivenduta nel 2011 per 35 milioni, cioè a meno di un decimo. Lo dico perché il mio unico timore, come si è capito, è che queste siano fuochi veri, ma fuochi veloci, e poi si sgonfi l'operazione. Però Facebook si è quotata al Nasdaq nel maggio del 2012, adesso capitalizza 170 miliardi di dollari, mentre Twitter, che è quotata al New York Stock Exchange dal 7 novembre del 2013, adesso capitalizza 20 miliardi di dollari. Traffico e poi la borsa. A 7.51 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, la borsa. Allora, Chiara Di Cristoforo, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. 0,07 anche Milano, invariata la borsa di Milano, più 0,24 Londra, più 0,30 Parigi, meno 0,40 Francoforte, più 0,40 l'America. Tra i titoli, Mediaset perde il 5%, e invece sul fronte opposto Saipem più 3%. Sì, la borsa oggi ha recuperato sul finale perché aveva aperto decisamente molto pesante, e invece grazie al buon andamento di Wall Street è riuscita a chiudere sulla parità. Mediaset, che citavi, sta pagando i timori per la raccolta pubblicitaria, perché le indicazioni sul primo trimestre sono decisamente pesanti. Credit Suisse, dopo aver incontrato gli investitori pubblicitari europei sulle principali TV, ha pubblicato un rapporto che dice che l'andamento è inferiore alle previsioni. Un calo del 3% nei primi tre mesi dell'anno, questo non era atteso e penalizza soprattutto i televisivi. C'è da dire anche che Mediaset è uno dei titoli che ha guadagnato di più ultimamente, quindi oggi ci sono state queste prese di beneficio. Saipem, che citavi, mette a segno un altro 3%, il titolo è sotto i riflettori da ieri Ci sono state indiscrezioni di stampa sull'offerta di acquisto sul 20% del capitale da parte di una società norvegese. In realtà queste indiscrezioni sono state accolte un po' tiepidamente dagli esperti, perché si tratta di una società che di fatto capitalizza meno di Mediaset, però il mercato ha preso spunto per acquistare, anche perché oggi sono andati bene comunque tutti gli energetici. Ancora tra i titoli A2A bene più 2,20%, citavi appunto gli energetici, bene anche Enel più 1,70%, Snam più 1,14%, Terna che in qualche modo è collegata più 0,90%, Fiat più 2% in borsa, mentre sul fronte opposto il Banco Popolare era molto trainante, poi visto che ha recuperato un po' nel finale, se non vado errato. Sì. UbiBank invece meno 1,35%, Atlantia meno 1,40%, World Duty Free meno 1,20%. Tra gli altri titoli vorrei un commento su Salini in pregiro, perché sono ripresi i lavori di ampliamento del canale di Panama, e anche su Risanamento, che è il miglior titolo in assoluto, guadagna il 12%. Sì, Salini in pregiro ha chiuso a più 3,16%, c'è questa telenovela ormai che stiamo seguendo dei lavori, oggi di fatto sono ripresi anche se non è stato firmato l'accordo, quindi per ora hanno ricominciato a lavorare, ma non c'è ancora l'accordo su questi extra costi che non si capisce da chi debbano essere pagati. Evidentemente stanno trattando, c'è anche un po' il gioco delle parti nella comunicazione, a un certo punto dicono è quasi fatta, poi dicono interrotta, oggi comunque già la ripresa dei lavori sembra un buon segnale. Risanamento che citavi è schizzata dopo l'arrivo di una nota che ha confermato un'offerta da parte di Zunino insieme ad altri investitori per acquistare le azioni di Risanamento che sono in mano alle banche e al Sistema Holding, e questo porterà al lancio di un'OPA obbligatoria. È una notizia che era già uscita sul Sole 24 Ore, ma questa è la conferma, e quindi è scattata la corsa agli acquisti. Peggior titolo invece Valore Italia, AXA, Sacom meno 6,40%, di nuovo Benaf più 6,64%, Centrale del Latte Torino più 6,10%. Grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Core, Il Sole 24 Ore, e vi ripeto e confermo, alle 18 avremo lo speciale dedicato all'Ucraina. Vorrei però chiudere da dove purtroppo siamo partiti, e allora ricordando di nuovo, perché è un tema a cui teniamo moltissimo, che non vale mai la pena togliersi la vita per una multa, per una contestazione, però vorrei dedicare, se si può, non lo facciamo mai, ma questa breve canzone all'ispettorato del lavoro e agli ispettori del lavoro appunto in provincia di Napoli, perché a Casalnuovo che avevano trovato la moglie di Edoardo De Falco ad aiutare nella pizzeria panificio, e gli hanno chiesto di pagare 2000 euro in pochi giorni. Lui si è attaccato alla canna del gas della macchina e si è suicidato, lasciando la moglie, una figlia di 14 anni e i fratelli gemelli di 5, perché chiaramente non si poteva procedere in altro modo, vero? Ripeto, nessuno vuole violare la legge, si poteva chiedere una rateizzazione. Se uno non ce la fa e tu gli hai beccato la moglie che gli dà una mano a fare la pizza, fermo restando che non mi sembra il paese che ha il record di evasione, il problema del paese che ha il record di evasione europea questa, o vogliamo dire che l'evasione la fanno le mogli che aiutano i pizzaioli? Ecco, si può avere la fermezza della legge e il buon senso della ragione e dire bene, rateizza. Vorrei capire perché questo non è successo. Immagino che l'ispettorato del lavoro, da cui dipendevano gli ispettori, sarà in grado di chiarirmelo, e intanto gli dedichiamo questa canzone. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere sorridere, vivere è passato tanto tempo, vivere sono mia torna domani dalle 17 in poi, è un ricordo senza tempo, vivere.